la spiaggia all'alba di un'estate fa. Ti vedo bianca più che mai, coi succhi della vita addosso. Sei più bella e contrasta con l'aria da niente che ostenti. Quel senso di precarietà adagiati in questo bar volgare a camuffare l'infantile piega delle nostre vite. Se tu mi guardi così, sai cosa penso, sai tutto quello che sento. Dai non guardarmi così, lasciarti andare via. E se ci penserò ancora, l'inevitabile esploda in mezzo a questo silenzio che taglia il respiro. Non trovo la strada. È strano ritrovarsi qua, bevendo aperitivi a goccia, ci guardiamo negli occhi che frugano inquieti lo spazio dell'aeroporto. Da quando fumi a raffica, lo sai fa male, poi ti guardo e ho voglia di ricominciare, ma è troppo tardi e adesso devi andare. Ma se mi guardi così, sai cosa sto pensando? Sai tutto quello che voglio. Dai non guardarmi così, giuro non posso lasciarti andare via. E se ci penserò ancora, l'inevitabile esploda in mezzo a questo silenzio che taglia il respiro. Non trovo la strada. E se ci penserò ancora, l'inevitabile esploda in mezzo a questo silenzio che taglia il respiro. Non trovo la strada. In mezzo a questo silenzio che taglia il respiro. Non trovo la strada.